Cari amici, oggi è il 14 settembre, festa dell'esaltazione della croce di Gesù. Io ho già celebrato la Santa Messa, mi sono preparato bene, leggendo, meditando, sottolineando la liturgia, perché lo dico a voi, ma cerco di viverla per me. È la più grande scuola di preghiera che io finalmente sono riuscito a scoprire. E volevo semplicemente leggervi le antifone, alcune orazioni che sono veramente belle. Poi mi è venuto un altro pensiero, ho detto: Oh Signore, io devo pregarti perché potrei anche parlare bene, se riesco, potrei anche parlare bene della tua croce. Potrei sottolineare i collegamenti spirituali della liturgia, poi però sperimento che quando a me o ad altri arriva addosso la croce non capisco più niente. Se poi penso, e ne ho visti tanti, agli ammalati, a quelli che sono davvero gravi, a quelli che portano non una croce, un crocione, se penso a tutte le mamme, quante ne sento che sono quasi disperate per i loro figli, per i loro mariti alcuni. E allora dico, Signore, posso fare solo una preghiera. O Signore Gesù, ti dico, aiutaci ad amare la croce, ma aiutaci soprattutto a portare la croce. E poiché anche tu hai avuto bisogno di un Cireneo che ti aiutasse perché era pesante anche per te sulla via del Calvario, così ti chiedo, dà anche a noi qualche Cireneo, i Cirenei che tu vuoi. Io da parte mia ne chiederei due. Chiedo che tu stesso, Gesù, sia il mio Cireneo e Maria tua madre, la Dolorata, sia l'altra mia Cirenea che mi aiutino. Ma poiché non sono solamente miei, ma siete potenti, Gesù e Maria, io vi chiedo, io prego perché lo siate anche di tutta la gente che ascolterà questa preghiera. O Signore Gesù, o Maria addolorata, siate i nostri Cirenei, ve lo preghiamo, ve lo chiediamo, per la vostra misericordia che avete e per l'affetto che abbiamo verso le persone che sono sotto la croce. Amen.